sono le 9 e 11 minuti di lunedì 5 febbraio 2024. E intanto saluto Leonardo Zaccone, che così mi chiedeva come mai non vi siano pendodeliri previsti la domenica. Non c'è una regola, magari ha pensato che io fossi come Lidl in momenti di gloria, che non gareggiava la domenica e fu necessario sconvolgere il calendario delle Olimpiadi, ma non è questo il caso. E, no, semplicemente ieri non avevo idee, non avevo tempo, non lo so. Io cercherò di tenere una cadenza molto molto più legata alle tematiche rispetto all'idea di assecondare l'aspettativa di un palinsesto che per fortuna non esiste. È una delle cose belle di internet. Se proprio devo dire una cosa che un po' mi ha colpito, che è successa ieri e di cui nessuno parla, se non la diretta interessata, ma secondo me bisognerebbe parlare di più, è quello che è successo a Teresa Potenza, che è una giornalista molto in gamba, una podcaster anche molto in gamba, che dall'oggi al domani si è vista recapitare la letterina dell'AGCOM e soprattutto dall'oggi al domani il suo podcast è stato cancellato da Spreaker, la piattaforma che lo ospitava, per presunto, diciamo, copyright infringement, cioè non lo so, evidentemente da qualche parte c'è qualche brano musicale, ma lei giustamente cade dalle nuvole, perché insomma è sempre stata molto molto scrupolosa sotto questo profilo. Il che, adesso, al di là della modalità, cioè il fatto di buttare giù un intero podcast, forse in qualche modo spiega come mai io ho risolto il problema alla radice rinunciando ai miei feed sulle principali piattaforme pubblicando tutte le puntate d'archivio, cioè delle quattro serie precedenti, su archive.org. quindi se per caso qualcuno le volesse ascoltare, anzi in realtà qualcuno me l'ha anche chiesto, le vecchie serie di Pendodeliri sono tutte ricercabili con la voce Pendodeliri su archive.org, che come dire, non è una di queste piattaforme completamente in ginocchio rispetto alle logiche tossiche, lasciatemi dire, del copyright, che è una cosa in sé sacrosanta. Il problema è quando viene usato come una clava, soprattutto poi con confini che non hanno minimamente l'obiettivo di tutelare gli artisti o comunque i cosiddetti creatori, creators come si chiamano oggi, ma semplicemente l'idea è quella di rivendicare il principio per cui se non passi attraverso un editore non sei un autore, e questo è insito nello stesso acronimo SIAE, cioè il fatto che esista un'azienda di Stato, che un ente, diciamo, di Stato, che fin dall'acronimo ti dice che gli interessi delle due categorie, autori ed editori, coincidono al 100%, nell'era del web fa abbastanza ridere, perché è chiaro che gli autori potrebbero decidere come monetizzare le loro opere d'ingegno in modo del tutto indipendente rispetto alla nozione antica di editore, ma soprattutto è una definizione che pecca di tecnodeterminismo. Una tecnologia non afferma mai in sé un principio. Il fatto che la tecnologia fosse appunto quella degli editori del Novecento non legittima un autore a definirsi tale solo quando c'è qualche editore che intende pubblicarlo. Ecco, provo a girarla in questi termini, ne parlo parecchio nell'ultimo libro che ho scritto, Stiamo sprecando internet, dove per evitare di scrivere castronerie legali mi sono anche affidato alla consulenza di un tecnico estremamente preparato sul tema. E niente, allora, il tema del copyright è in questo momento, diciamo così, qualcosa che va affrontato un po' più ad ampio spettro. È molto molto in pista su questo il bravissimo Alberto Pugliafito, che è il creatore di Slow News, che fondamentalmente svela la natura di ciò che il copyright è diventato, cioè da qualcosa che serve a fare, diciamo così, della creatività dei posti di lavoro, ha un'arma del capitalismo per, diciamo così, imporre una catena sostenuta dal possesso del capitale su un'altra catena di cui si ignorano le regole fondamentalmente, che si sta formando nonostante tutto e che sta continuando anche a proliferare nonostante tutto. Pian piano i monopoli scricchiolano, pian piano le nuove regole si affermeranno, ci vorrà tempo, pazienza, ci vorranno tempi, temo, generazionali. Non saremo forse noi i diretti beneficiari, perché siamo già troppo anziani, però ci arriveremo.